Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti Estate, voci dalla nuova emigrazione. Oggi, prima puntata di settembre, torniamo a parlare di impresa. Impresa giovane, creata da giovani italiani all'estero. Non sempre, come vedremo, si tratta di aziende innovative, web, magari con base in Silicon Valley. Questi ultimi rappresentano sicuramente i casi più eclatanti, le punte di diamante del nostro sistema imprenditoriale Under 40 all'estero. Sempre più spesso, però, scopriamo anche aziende operanti in settori più tradizionali, come quelli di cui vi parleremo oggi. Minimo comune denominatore sia delle aziende più innovative sia di quelle più tradizionali sono quasi sempre un humus imprenditoriale fertile, meno burocrazia, più incentivi al fare impresa, maggiore flessibilità e soprattutto un ambiente che permette di osare e sognare in grande. Oggi viaggiamo fino all'Europa centrale, a cavallo tra Polonia e Germania. Per cominciare prendiamo un treno fino a Falco, minuscolo paesino di soli 800 abitanti nell'estremo sud polacco, per raccontarvi la storia di Giovanni Masini, 29enne imprenditore. Lo abbiamo incontrato a marzo. Nome: Giovanni. Cognome: Masini. Età: 29. Città di origine: Conegliano. Studi: ingegneria. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2004, prima volta. Per andare dove? Australia. Perché? Con una borsa di studio. Quale lavoro svolge attualmente? Imprenditore. Dove? Un paesello di campagna nel sud della Polonia. Tornerai? No. L'Italia è un paese con un futuro nero nel quale non tornerò se non per qualche giorno di sana vacanza. Giovanni, ci facciamo accompagnare dal grande compositore polacco Fryderyk Chopin per iniziare a raccontare la tua storia, che porta un messaggio solo in apparenza negativo, come vedremo. A giovanitalenti@radio24.it descrivi con una lunga email un paese che impedisce quasi strutturalmente di crescere, perché un sistema che definisci inefficiente sottrae ai suoi giovani lo slancio per iniziare e scommettere da un punto di vista imprenditoriale? Perché la prospettiva di dare concretezza ad un'idea, seguendo tutte le procedure, le condizioni imposte ad un'azienda in Italia, semplicemente non è allettante. Secondo, perché è un sistema con una classe dirigente molto vecchia e poco propensa all'innovazione. Più brutalmente, è un sistema che non sta credendo nei giovani. Iniziamo con la tua storia, anticipando che è abbastanza diversa rispetto a quelle che abbiamo raccontato finora. È un po' un unicum, ti iscrivi a ingegneria per cominciare, ma di quei 5 anni in Ateneo conservi un ricordo deludente. Perché? Perché ho studiato su pile di libri, quando invece un ingegnere dovrebbe studiare sulle macchine o nei cantieri. L'università italiana, secondo te, stimola l'imprenditorialità? È sicuramente collegata al mondo dell'industria, non voglio sparare a zero quando la realtà probabilmente è assai variegata, però sono collegamenti, per quel che ho potuto vedere, non sistematici. A 21 anni ottieni una borsa di studio, prendi e parti per l'Australia. Cosa farai in quell'anno di studio agli antipodi? Andare all'estero è una buona vitamina per i giovani? Andare all'estero non è la vitamina, è il carboidrato, non è un accessorio per quanto importante, è proprio una componente strutturale. Fa un po' ridere come in Italia si tenda a sottolineare sempre l'esperienza all'estero di un giovane, come se fossero delle cose esotiche. Dovrebbe essere una cosa comune, quasi ovvia. Condivido al 100%. Durante gli anni della laurea specialistica cominci a lavorare, lo fai presso un'industria meccanica del bolognese, con parole tue, contratti pseudo inesistenti, prospettive vaghe e nebulose, tanta fatica, soldi zero. Giovanni, tra poco ti ascolteremo parlare da imprenditore, tuttavia da dipendente non credi che in Italia i giovani laureati il posto fisso se lo vadano a cercare, disperati anche dalle condizioni contrattuali e dalla scarsa valorizzazione che ricevono in azienda? Io credo che in un'azienda privata si riesca a capire in fretta chi ci lavori dentro. E in generale, quelli che frullano vengono tenuti stretti, mentre quelli che guardano l'orologio di continuo, come si faceva in uffici sovietici, vengono lasciati andare. Ma se il sistema di assunzione e licenziamento è così mostruosamente incasinato come in Italia, capisco anche come possa mancare la connessione tra questa teoria e la pratica. E allora ci saranno i cocco pro, bobo, gli stagisti non pagati, eccetera. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Giovanni, salti continuamente su treni in corsa, ancora laureando lasci l'azienda bolognese e voli in Quebec per lavorare a un progetto. Qui c'è una considerazione che mi colpisce. Scrivi: nessuno in Italia fece alcunché per trattenermi, con mia sincera delusione. In Italia, se sei giovane devi pedalare e stare zitto. Cosa conta di più nelle gerarchie? L'età e il talento dove lo mettiamo? Conta l'età, conta il talento, conta se il capo reparto è amico del papà, contano un milione di fattori diversi. È difficile tracciare il profilo del candidato perfetto al contratto indeterminato. Ma sono certo che in Italia deve avere la grande fortuna di finire nel posto giusto al momento giusto, oltre ovviamente a essere un elemento valido. Poiché anche se vali, ma l'azienda non è in fase di grande espansione, è probabile che verrai lasciato andare, anche se talvolta a malincuore. In Canada un'altra esperienza straordinaria, poi rientri in Italia, ottieni la laurea e subito dopo riparti per la Russia. Non hai neppure pensato un attimo di fermarti qui? Mai pensato. fatto anche colloqui interessanti, aziende importanti, come credo un po' tutti i miei coetanei. Ricordo come fosse ieri le parole di mio padre che mi chiedeva: ma dove vai? L'America è qui. Però lui ha cominciato a lavorare a Milano nel 61, quando i lavori te li tiravano dietro e dovevi scansarti per le troppe offerte, mentre ora le cose sono cambiate. E l'America non è più qui. Cosa vai a fare in Russia? Soprattutto, quali occasioni e opportunità hai trovato all'estero che qui non hai trovato? Vado a lavorare in un'azienda di costruzioni. A Mosca ho trovato un paese con tante opportunità, decisamente più povero della penisola, ma anche molto più dinamico, un paese nel quale le cose girano veloci. 2 anni dopo, insieme a tuo fratello, vi lanciate in un'avventura che cambierà le vostre vite. A soli 25 anni aprite un'azienda in uno sperduto paesino di soli 800 abitanti nel sud della Polonia. Chi ve l'ha fatto fare? Innanzitutto ci tengo a fare il nome di mio fratello, che si chiama Roberto, perché senza di lui non sarei qui. L'idea è venuta perché è un posto estremamente allettante, anche se visto sulla carta potrebbe non dare nulla. Qui mettete in piedi un'impresa che produce simil calcestruzzo. Punto primo, tu per scelta eviti i luoghi glamour dell'emigrazione tradizionale. Quanto può rivelarsi vincente per un giovane modello di immigrazione in paesi che stanno ancora costruendo una progressione di crescita? Può rivelarsi vincente se si considera il fatto che luoghi sfigati, diciamo, poiché evidentemente meno allettanti, hanno anche meno concorrenza. È questo l'invito che faccio ai miei coetanei che stanno pensando alla possibilità di uscire dall'Italia. Non avere come unica meta Parigi, New York, Sire o Palo Alto. Paradossalmente più un posto è sfigato, più ha prospettive perché è tutto da costruire. A giovanitalenti@radio24.it scrivi: mi sento un'occasione persa per l'Italia, un globulo rosso imprenditoriale che il paese ha perso addirittura in partenza. Quanto è grave, Giovanni, questa emorragia di globuli rossi imprenditoriali? È gravissima. Cioè l'Italia si sta permettendo il lusso di far andare via dei pezzi di futuro, le sue stesse risorse, mentre non hai soldi per sostenere suo stesso sistema a casa ed ha un debito pubblico a livelli da incubo. Tu non senti così vicino il tema della meritocrazia. In ambito imprenditoriale affermi: il mercato lo determina il mercato. Però in un sistema paese che tu stesso definisci allo sfascio, non pensi che anche il mercato sia drogato? Cioè quanti giovani imprenditori italiani con idee brillanti devono conoscere qualcuno per avere credito, per entrare nel mercato? Il mercato di beni e servizi ultimi non è drogato. Probabilmente non è mai stato così in forma grazie alla globalizzazione, che se presa nel verso giusto è una grande opportunità per tutti. È piuttosto il mercato del credito ad essere drogato, questo sì, questo credit crunch che sta spaccando il tessuto industriale, cioè le banche dei grossi carrozzoni non capiscono le necessità dei tanti piccoli che hanno bisogno di denari nuovi per crescere e anche per sopravvivere in questo periodo di vacche magre. Descrivi l'Italia come un paese che non funziona più, col freno a mano tirato. Ci delinei in brevissimo 3 soluzioni di facile implementazione per rendere un paese interessante e attrattivo. 1. Meno tasse. 2. Meno tasse. E 3. Meno tasse. Finché questo stato mangione si continua ad alimentare delle creatività, gli sforzi, i risultati della gente che produce, non si va da nessuna parte. È come un motore che sviluppa 200 cavalli all'albero, però li dissipa in una ciclistica malfunzionante, ne arrivano 100 alla ruota e la motocicletta arriva ultima, nonostante un gran bel motore. Giovanni, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Vedo un paese che ha banchettato per decenni pagando a cambiali. Cosa cambierei? Molto facile parlare, tutti sanno quali siano i problemi, ma bla bla bla è un conto, nel cambiare le cose è un altro. Quindi allora via, via, via, via, un sacco di cose da sfoltire. Via gli uffici pubblici con persone che non rendono, le province, gli enti inutili, i poteri forti. Che la carta, scriviamo, vi prego, lettere d'amore su carta, ma per cortesia digitalizziamo tutto il resto. Sono troppe cose che vanno cambiate, troppa poca voglia di cambiarle perché cambiano davvero. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. Puntata dal forte sapore centroeuropeo, quella odierna, dall'estremo sud polacco ci trasferiamo in una delle capitali più vibranti del vecchio continente, Berlino, dove ci aspetta Lisa Filippini, 28enne Project Director a Fear Management, agenzia di promozione di giovani designer che lei stessa ha cofondato. Abbiamo incontrato Lisa lo scorso ottobre. Nome: Lisa. Cognome: Filippini. Età: 28 anni. Città di origine: Brescia. Studi: mi sono laureata al Politecnico di Milano in design della moda. Anno in cui hai lasciato l'Italia: settembre 2009. Per andare dove? A Berlino. Perché? Perché ho fatto un Erasmus in Germania. Quale lavoro svolgi attualmente? Sono Project Director di Fear Management. Dove? A Berlino. Tornerai? Sì, lo spero. Ci chiamavano Casta. Eravamo noi Casta. Sono scappata dall'Italia dopo la mia laurea in design della moda per la desolante prospettiva che mi offriva la scena moda milanese e rimango dell'idea che le possibilità che mi ha dato Berlino non le avrei trovate in nessun altro luogo. Così Lisa è iscritto a giovanitalenti@radio24.it spiegando perché hai scelto la Germania non come gastarbeiter, come suggerisce Roy Paci, ma per avviare una tua professione qualificata. Domanda a bruciapelo per iniziare: perché troppo spesso si usa l'espressione fuga o scappare quando si tratta di raccontare il vostro espatrio? Io parlerei appunto di circolazione se l'Italia fosse un paese che mi avesse offerto le stesse condizioni di altri paesi, tipo la Germania. Quindi parlerei appunto di paese avanzato se effettivamente l'Italia lo fosse. Io sono veramente scappata sia per la noia che mi circondava che per cercare nuovi stimoli, che in realtà poi ho trovato a Berlino. Iniziamo come sempre dai tuoi studi, laurea specialistica in design della moda al Politecnico di Milano. Prima domanda, cosa ti ha portato verso quest'area? Ho sempre avuto un debole per le attività artistiche e soprattutto per l'abbigliamento e i vestiti. La moda mi sembrava un ottimo compromesso tra le due. Già durante gli studi, prima esperienza di lavoro presso una nota sartoria milanese, un semestre a corrente alternata. Hai imparato molto, no? Sì, diciamo che ho avuto la fortuna di essere a contatto con dei sarti molto esperti che a loro volta hanno imparato a bottega e quindi ho provato sulla mia pelle quello che voleva dire l'amore per la confezione e la qualità con cui l'Italia è effettivamente conosciuta all'estero. Però lo stagio si rivela presto all'italiana, pochi euro, in nero, nessuna alternativa possiamo dire a questa, come dire, moderna schiavitù. È vero che i tuoi colleghi in Italia non hanno avuto miglior fortuna? Assolutamente sì, io la chiamerei proprio moderna schiavitù perché è comunque un vero e proprio lavoro e assolutamente non retribuito. Diciamo che lo stage sono delle mansioni, semplici o meno, che vengono date a persone che poi vengono continuamente ricambiate, quindi in realtà non ci sono delle mansioni che vengono imparate, ma semplicemente un ricambio di persone che esegue sempre le stesse mansioni. Questo mi ha fatto realizzare che il dietro le quinte della moda non viene mai visto per com'è veramente. Ciò mi ha spinto a cercare il mio posto altrove, ci scrivi. Allora, com'è questo dietro le quinte della moda, soprattutto per i giovani? In Italia è veramente un dietro le quinte molto triste, cioè tutti vorrebbero lavorare nella moda appunto perché è un campo che attrae molto. Quelli che invece poi ci lavorano davvero scoprono che è un campo molto meschino e nonnista. Il lavoro è tanto, pagato molto poco ed è difficile non farsi sfruttare, che poi questi personaggi non fanno altro che infierire sul fatto che dietro di te c'è una fila di persone che vorrebbero lavorare al tuo posto. Elisa, io temo questo non sia l'unico campo in Italia dove questo avviene, sì, soprattutto per i giovani. Torniamo a te, durante il quarto anno di università ti trasferisci ad Hannover, Germania del Nord, programma Erasmus. Quali prospettive ti apre questa esperienza? Ma diciamo che imparo molto di più sull'ABC del taglio cucito e soprattutto hanno un approccio sia appunto molto più pratico rispetto a quello che io ho imparato al Politecnico. Durante questo periodo visiti Berlino, è quasi una premonizione, no? Dici vorrei venirci a vivere, e nel 2007 ti laurei con una tesi sul confronto tra la sartoria italiana e quella indiana. Giudizio finale sulla tua esperienza universitaria in Italia? Tecnico, secondo me, è veramente un'ottima università per quanto riguarda l'approccio agli studi. Non è così poi specifica nei contenuti e non dà grandi approfondimenti, però si impara che appunto bisogna cavarsela da soli, quindi credo che sia comunque un'esperienza positiva. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Goodbye malinconia, per dirla con caparezza. 5 mesi dopo la laurea voli a Berlino. Nessuna incertezza, Lisa, nessun dubbio sull'ipotesi di cercare lavoro o mettere in piedi qualcosa in Italia? Ci hai provato? Dopo la laurea ho provato a cercare lavoro e ho trovato un lavoro come hostess retribuito 5 euro all'ora, quindi questo non ha fatto altro che confermare che dovevo partire. Se avevi un minimo dubbio ti è passato. Com'è stato, esatto, l'impatto con la Germania? Arrivare da soli, cominciare da zero con una lingua molto ostica. Beh, è stato terribile. Devo dire che è stata una delle esperienze più difficili della mia vita. Conoscevo una persona a Berlino che poi si è rivelata comunque non molto d'aiuto e non ho fatto altro che affrontare una paura alla volta. Diciamo che per quanto riguardava la casa c'era questa mia amica che mi ha dato ospitalità per un periodo e poi sono riuscita in qualche modo a risolvermi burocraticamente, insomma una cosa per volta, ecco. Trovi quasi subito lavoro presso un network di moda quale responsabile del mercato italiano. Come ce l'hai fatta? Conoscevi qualcuno oppure è bastato il curriculum a convincerli? In realtà ho semplicemente risposto ad un annuncio, ho mandato il mio curriculum e mi hanno accettato immediatamente. As simple as that, facilissimo. In Italia non è sempre così, anzi, Sì, dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così. Dopo 8 mesi di promesse, sì, però, ti confronti, devo dire, con un'esperienza anche un po' italiana, paradossalmente, perché tu e il tuo futuro partner d'affari, Nicolò, venite licenziati. Come questo episodio cambia la vostra vita fornendovi la spinta vincente? Diciamo che noi siamo appunto depressi per il primo giorno rispetto appunto al fatto di non avere poi un'entrata fissa, però ci siamo detti che non era poi la fine del mondo se potevamo inventarci qualcosa di nuovo, e così è stato, abbiamo aperto la nostra agenzia. Nel novembre del 2010 il grande salto, aprite la partita IVA della vostra agenzia, non sei tuttora neppure trentenne, allora prima cosa, l'idea alla base della vostra società in due parole. È una risposta al riempimento di alcuni gap che ci sono nella moda berlinese. Qui appunto i bisogni dei designer ci sono ancora, non ci sono tantissime agenzie PR, non ci sono molti showroom, diciamo che noi possiamo essere d'aiuto sia per connetterli alle varie dimensioni di moda sia connetterli con il mercato internazionale. Quanto è semplice o complicato aprire una società in Germania? Per noi è stato molto molto facile, semplicemente abbiamo dovuto 56 euro per l'iscrizione alla Camera di Commercio e poi compilare dei moduli per ottenere la partita IVA. Perché definisci Berlino un paradiso per gli italiani? Perché è una città in cui funziona tutto, dove ci sono un sacco di servizi, dove le cose comunque vengono fatte ad hoc, ma semplicemente il ritmo della vita è molto rilassato. Siamo riusciti ad affermarci nella scena moda berlinese, prospettiva che se fossi rimasta a Milano sarebbe stata nulla. Lisa, chi vi sbarra la strada in Italia? Volevo citare Luca Testoni, che scrive L'ultima sfilata e che dice che appunto l'Italia moda ormai è una casta. E quindi è questa casta che non vuole assolutamente, o che ha paura dei giovani talenti. Non ha nessuna intenzione di far spazio a noi giovani piuttosto che a personaggi che possono in qualche modo influenzare il campo moda, e non ha nessuna intenzione di darci lavoro. Per chiudere vorrei arrivare alla metafora dei ponti, no? Ponti che voi costruite tra i designer per facilitare sinergie. Io allargo lo spettro. Quanto può essere facile o difficile costruire ponti tra i nostri migliori giovani professionisti in Italia e all'estero per avviare un processo di modernizzazione e trasformazione di questo paese vecchio e provinciale? Io credo che dipenda soprattutto da questi giovani. Vogliono veramente costruire ponti Italia e l'estero, vogliono semplicemente scappare? È questo che io mi chiedo molto spesso, perché i giovani che io incontro non sempre sono disposti a mettersi in gioco, ma anzi sono molto frustrati, quindi dipende un po' da quello che è la nostra generazione, dipende da quello che effettivamente si vuole migliorare il paese o si vuole semplicemente scappare da questo paese. Lisa, domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? L'Italia dall'estero è molto triste. Direi che la Germania ha un'ottima struttura amministrativa e di pagamento tasse. Se l'Italia fosse in grado di copiare, semplicemente copiare questa struttura, forse saremmo veramente a metà dell'opera. E prima di chiudere questa puntata di Giovani Talenti, apriamo lo spazio Interactive, una rubrica di confronto diretto e aperto con i nostri ascoltatori, rubrica che ci accompagna per tutta l'estate. Per cominciare vi ricordiamo il nostro manifesto dei Giovani Talenti, che resterà aperto e sottoscrivibile online fino a metà di questo mese. Siete tutti invitati a contribuire sul web. Inviateci le vostre proposte per rendere l'Italia un paese di circolazione dei talenti. Sei un giovane professionista under 40 all'estero? Indicaci un motivo che ti porterebbe a tornare. Oppure sei un giovane professionista under 40 in Italia? Allora indicaci un motivo che ti aiuterebbe a restare. Inviateci le vostre idee specificando il paese di residenza nell'oggetto della email manifesto a giovanitalenti@radio24.it. In autunno renderemo note le vostre migliori proposte online e on air. E quest'estate vi proponiamo alcune delle migliori lettere pubblicate sul blog ufficiale di Giovani Talenti in questi ultimi mesi, cui potete accedere anche dalla pagina internet radio24.it. Continuiamo a parlare di impresa giovane con la lettera che ci ha scritto Ryan, giovane imprenditore del settore moda, con la tentazione della fuga all'estero. Mi fa piacere scriverle due righe sulla nostra storia. Siamo Ryan e Gianpietro, due amici di 23 anni che un anno fa, terminati gli studi, decidono di aprire un marchio. Le assicuro che andare a fare gli stagisti, anche se miseramente retribuiti, sarebbe stato più facile di imbarcarsi da zero su un progetto che, a distanza di un anno, non ci dà ancora un euro da mettere in tasca. Siamo partiti con due soldi e con tanta voglia di dimostrare di poter valere qualcosa e di saper fare impresa, vista anche la nostra inesperienza. A febbraio 2011 ci siamo laureati. Un mese dopo abbiamo aperto la partita IVA. A giugno a Firenze ad esporre al Pitti, alla sezione New Biz. Dopo vari no che abbiamo detto a degli showroom che ci hanno proposto un contratto da sciacalli, abbiamo deciso di arrangiarci da soli nel seguire, oltre alla parte relativa alla produzione, anche quella commerciale. Ora abbiamo una trentina di negozi in conto vendita con pagamento a 90 giorni a fine mese, che ci siamo creati da soli alzando la cornetta e chiamando negozio per negozio. Per il momento i soldi che ci mettiamo in tasca mensilmente sono pari allo zero, perché non riusciamo ancora ad avere guadagni sufficienti. Appena incassiamo, reinvestiamo in produzione, pagamenti, commercialista, INPS, fornitori, eccetera. Qui ci sono zero prospettive, zero incentivi. Le banche non finanziano. Soprattutto la cosa alla quale mi sento di dire un profondo no è la mentalità con la quale stanno crescendo i miei coetanei. E cioè con la consapevolezza che per comprare la macchina o per andare in vacanza dovranno fare un finanziamento. Io non ci sto a questo stato triste e apatico delle cose e mi impongo a trovare una via d'uscita a questa penosa situazione. Il modo più sensato e logico è quello di andare via da questo paese. Non dico certamente che l'estero sia un paradiso, ma di sicuro concorderà con me su questo concetto. Se in Italia mi impegno per seminare 10, raccoglierò sì e no 2. Se all'estero mi impegno per seminare 10, raccoglierò molto più che in Italia. Tralascio le mancate risposte dei responsabili acquisto dei negozi, che non si degnano nemmeno di risponderti con un semplice sì o no, e i campioni persi, sempre da parte di questi ultimi, che noi abbiamo lasciato nelle loro mani per riflettere sul possibile ordine o meno. La maggior parte delle volte parliamo di conto vendita. Per dire la vostra potete scrivere a giovanitalenti@radio24.it oppure ci potete cercare su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina fan Fuga dei Talenti. Veniteci a visitare sul gruppo aperto all'interno del portale professionale LinkedIn chiamato La Fuga dei Talenti. Soprattutto non dimenticate di visitare il blog ufficiale aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Qui postiamo le lettere, gli spunti e le riflessioni che ci inviate settimanalmente per email. Giovani Talenti rilancia infine la campagna d'estate. Siamo alla ricerca di nuove storie da raccontare nelle prossime settimane. Se siete under 40, espatriati nei più svariati settori professionali per vedere riconosciuti merito e competenza all'estero, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Aspettiamo le vostre lettere. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi online e a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.